America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Beh, questo è stato forse uno dei momenti più emozionanti della settimana scorsa. È il momento in cui Barack Obama, nella chiesa Emmanuel African Methodist Episcopal Church, la chiesa di Charleston, dove sono state uccise 9 persone, a causa dell'odio razzista, ha cominciato a cantare Amazing Grace. È una delle più belle canzoni americane, una canzone così in cui si ringrazia il Signore che sta accogliendo le anime dei saggi, dei buoni, che prima non vedevano e adesso possono. Ma la canzone per me diventa simbolica anche di quello che è successo in Europa, di quello che è successo in Tunisia, di quello che è successo in Francia. Insomma, stiamo passando un periodo davvero drammatico ed è lecito anche in questi momenti avere paura, ma aggiungo, la canzone diventa anche simbolica del ringraziamento, io credo, che Barack Obama ha voluto fare pubblico per una serie di grandi, importanti successi politici per la sua amministrazione, importanti successi per l'agenda civica americana. Ecco, qual è stata la notizia più importante che, secondo me, nel contesto storico supera quello che purtroppo è stato il dramma di queste uccisioni, sia che siano avvenute nella chiesa di Charleston, sia che siano avvenute in un villaggio turistico in Tunisia o in una fabbrica francese? Il fatto che la Corte Suprema americana, una Corte Suprema conservatrice, abbia riconosciuto il diritto al matrimonio dei gay. Sentiamo Obama. Today we can say, in no uncertain terms, our union a little more perfect. This ruling is a victory for Jim Obergefell and the other plaintiffs in the case. It's a victory for gay and lesbian couples who have fought so long for their basic civil rights. Ecco, la sentenza della Corte Suprema c'è stata venerdì, c'è stata quindi alla vigilia del fine settimana. Barack Obama dice: oggi abbiamo reso la nostra unione un po' più perfetta. E è una decisione che è arrivata dopo decenni in cui milioni di persone coraggiose si sono battute per i diritti, ha detto il presidente, dei gay e delle lesbiche. Poi Barack Obama ha chiamato in diretta Obergefell, che è stato il gay che ha fatto il ricorso alla Corte Suprema, da cui è partito tutto. Vi ricordo che in fondo anche gli stati più progressisti come New York hanno approvato la possibilità di avere delle nozze gay molto molto recentemente. Ma quali sono stati gli altri sviluppi storici? Ve li riassumo brevemente perché sono tutti molto importanti. Uno ha a che fare di nuovo con la Corte Suprema. La Corte Suprema americana ha approvato definitivamente la riforma sanitaria di Barack Obama. Anche questa è una decisione storica, perché sul piano politico svuota un po' la campagna elettorale. I repubblicani volevano andare in campagna attaccando la riforma sanitaria di Obama, volevano svuotarla, volevano proporre addirittura di abolirla. A questo punto non si potrà fare più nulla. La riforma c'è e resterà. 5 years ago, after nearly a century of talk, decades of trying, a year of bipartisan debate, we finally declared that in America, health care is not a privilege for a few, but a right for all. Ecco qua, vi ho fatto ascoltare una parte relativa proprio alla riforma sanitaria. Per 100 anni, per un secolo, dice Barack Obama, abbiamo discusso, abbiamo parlato, abbiamo sognato, abbiamo cercato di trovare soluzioni e non abbiamo concluso nulla. Alla fine una soluzione l'abbiamo trovata e non posso che essere grato alla Corte Suprema perché a questo punto l'abbia definitivamente confermata. La questione era molto tecnica, si diceva che c'erano delle parole poco chiare in riferimento al diritto dell'autorità federale di vendere delle assicurazioni assicurazioni a livello statale. Il Chief Justice, il capo della Corte Suprema, Roberts, che è un repubblicano convinto e un conservatore, è stato addirittura colui che ha scritto la dichiarazione della maggioranza. Scalia, invece, che ha scritto la dichiarazione, un voto 6-3 tra l'altro, quindi un voto piuttosto forte, della minoranza che si è opposta a questa scelta, è stato, devo dire, molto aggressivo. Ha detto addirittura che la Corte Suprema ha commesso un errore storico, perché questa è la riforma sanitaria della Corte Suprema, cioè la Corte Suprema è andata al di là di quello che deve essere il suo ruolo di interpretare la Costituzione, la legittimità degli atti del Parlamento vis-à-vis la Costituzione, ma ha addirittura fatto la legge. Infine, while the House voted to approve Obama's fast track authority, it voted down a bill that would have given aid to workers who lose their job as a result of trade deals with those other countries. Ecco, infine, Barack Obama ha ribaltato le sorti politiche, sembrava sepolto dal punto di vista economico dai suoi compagni di partito che avevano bocciato la sua richiesta di ottenere dei poteri negoziali speciali per poter avanzare il negoziato commerciale che avrebbe creato un'area di libero scambio nel Pacifico. Ebbene, è riuscito a rimetterla in piedi, ha trovato un appoggio da parte dei repubblicani e di alcuni democratici e ha vinto, ha portato a casa una vittoria molto importante, di nuovo dal punto di vista storico. Ci vorranno anni prima che queste cose succedano, però resterà scolpita sui libri della storia economica, questa giornata della settimana scorsa in cui l'amministrazione Obama ha ottenuto questi poteri negoziali speciali. Dal negoziato nell'area del Pacifico, che riguarda 12 paesi, si passerà rapidamente, probabilmente già entro l'inizio dell'anno prossimo, alla fase di chiusura di un negoziato per il libero commercio tra Europa e Stati Uniti. Di nuovo molto importante, perché è l'unica via questa per rilanciare la crescita laddove abbiamo dei problemi di invecchiamento della popolazione, di stagnazione della produttività, di stagnazione dell'economia in genere. E a questo punto sono tre sviluppi importanti che in qualche modo compensano l'enorme tristezza per queste uccisioni, per questa insofferenza con cui fanatici si rivolgono nei confronti di persone innocenti, semplicemente uccidendole. E una tripletta, vi dicevo, quella del presidente Barack Obama, che può diventare un poker. Perché? Beh, perché domani a Vienna dovrebbe chiudersi il negoziato per la denuclearizzazione dell'Iran. È una svolta molto importante se andrà avanti. Ci sono mille difficoltà, ci sono mille polemiche sia negli Stati Uniti che addirittura a Teheran, persino l'Ayatollah Khamenei ha criticato i suoi negoziatori, però alla fine forse qualche cosa succederà. Dunque Barack Obama porterà a casa dei risultati molto importanti per questo secondo mandato della sua amministrazione alla guida del paese. Potrebbe fermarsi già qui nell'estate di quest'anno, ma credo che andrà avanti, chissà che non cerchi di aggiungere a questo suo ricco carniere anche una legge per la riforma dell'immigrazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Siamo partiti con Barack Obama che è così ha cantato in chiesa Amazing Grace. Siccome al di là della storia ci sono poi fatti di cronaca che ci hanno fatto piangere, che ci hanno fatto preoccupare, ci sono delle vittime innocenti non soltanto in America, ma anche in Tunisia, in Francia e in molti altri paesi del mondo, direi trasformiamo Amazing Grace in una canzone universale e dedichiamola a coloro, a tutti coloro che in questi ultimi giorni ci hanno lasciato per colpa di una violenza priva di senso. Ve la propongo nell'interpretazione di Judy Collins. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind. I